get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that, Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Allora, buonasera a tutte, state per ascoltare la nostra 338esima trasmissione, chi vi sta parlando è Caterina, ma visto che oggi abbiamo previsto di mandare la registrazione dell'iniziativa riguardante la presentazione di un libro, potete ascoltare anche altre voci. Chi ci ascolta con assiduità potrà senz'altro riconoscere quella di Lucilla, ma soprattutto quella delle due ospiti che ci hanno aiutato a presentare questa antologia di racconti e poesie a tematica LGBT, e cioè Margherita Giacobino e Delia Vaccarello. La presentazione di Over 60 Women si è svolta alla Casa Internazionale delle Donne lo scorso 3 febbraio ed è stato un evento organizzato insieme dal Coordinamento Lesbiche Romane, cioè da noi, e dal Kesbilè. Bene, ora ascoltiamo il brano Dark Street dalla voce del complesso Le Kick La Luna e quindi buon ascolto. Something which can help. This is just insane. follows me I turn around. I throw my rage at him in his face, in his face. Allora, intanto benvenute a tutte e grazie. Ci è sembrato doveroso, l'ha detto già Nancy, partire con la proiezione di questo corto di Luchi, un progetto realizzato nel 1996, perché è proprio, come spiegavo, come raccontavo prima con le nostre autrici, che lo sanno benissimo, non c'era bisogno di spiegazioni, però è proprio sull'etaismo e quindi ci sta proprio bene, ci è stato proprio bene, acceso come si dice qua a Roma, no? E poi l'antologia è stata dedicata proprio a Luchi, che purtroppo, appunto, questa si chiama Over 60 Women e Luchi non ce l'ha fatta arrivare ai 60, e quindi così come è nella dedica del libro, e in questa maniera noi la ricordiamo Luchi, che è stata una donna delle relazioni e del fare, e con la quale molte di noi hanno, appunto, l'hanno incontrata nel proprio percorso e hanno fatto delle cose con lei. Quindi ciao Luchi, e questo per noi è quanto. Allora, veniamo invece a questa sera e vi presentiamo questa opera, perché mi va di chiamarla, ci va di chiamarla così, perché è un tipo di iniziativa estremamente interessante, secondo noi che l'abbiamo letta e quindi ne abbiamo discusso insieme. I due gruppi promotori sono CLR e Kesvilè, e quindi insieme abbiamo pensato e abbiamo un po' ragionato su questo tipo di contenuto e che cosa volesse significare. Intanto due parole proprio sul progetto, perché chi acquisterà Over 60 Women e chi in ebook o in cartaceo, quello potete decidere tranquillamente, sosterrà un'iniziativa che è del gruppo Lambda, amici della Fondazione Sandro Penna di Torino, e che si sta occupando proprio della cosiddetta terza età, o comunque delle situazioni della comunità GLBTI che ha raggiunta una certa età può incontrare una serie di problematiche. E intanto questa è un'associazione culturale che si occupa di gestire anche del materiale, la biblioteca e leggo, quindi letture, poesia, arte, storia, la valorizzazione degli archivi e della biblioteca e dell'emeroteca della fondazione stessa, e poi le attività che sono più specifiche, appunto, per gay e lesbiche. Qui dice addirittura over 40, quindi insomma ci rientriamo in tante ormai. Detto questo, dal 2014 a Torino funziona questo sportello terza età per la comunità GLBT ed è un'iniziativa estremamente interessante. Quello che leggerete dalla prefazione che ha scritto Margherita è che il progetto stenta, no? C'è una difficoltà a portarlo avanti e quindi però intanto queste antologie sono state concepite per invece andare a implementare questa opera, che insomma direi che è interessante. Siamo qui con noi delle 14 autrici, abbiamo due ottime rappresentanti, le conoscete tutte, Margherita Giacobino e Delia Vaccarello, dette in ordine alfabetico, non c'è un'importanza maggiore. E quindi procedo in maniera nell'ordine alfabetico, le conoscete, però due parole ci va di spenderle. E allora Margherita Giacobino, anche l'anno scorso è stata qui con noi a presentare l'altra sua fatica, l'altro libro, e domani la vedremo con l'ultima fatica. e quindi è scrittrice, è giornalista, ha curato sceneggiature di film, attualmente ancora collabora con Aspirina, che è una rivista satirica online, ma prima era cartacea, e quant'altro, insomma, è una donna vulcanica, non dobbiamo dire altro. Delia Vaccarello, anche lei è giornalista ma scrittrice, ha realizzato, mi sembra, sette Principesse Azzurre, quindi l'amore tra donne e con le donne, e noi ne abbiamo presentata una. Poi un'altra raccolta su i giovani, ed era L'amore secondo noi, che abbiamo, anche quello l'abbiamo presentato noi come CLR. Scrive anche di filosofia, ma soprattutto ha curato per un sacco di anni all'interno del quotidiano Unità la rubrica Liberi Tutti, e su quello si è spesa personalmente, mettendoci il cuore, l'anima, il sangue e quant'altro, lo possiamo dire, Delia, sui diritti e contro l'omofobia e contro le discriminazioni per la comunità LGBT. Quindi un'altra esperta, se vogliamo dirla in questi termini, no? Allora, quindi l'atto doveroso l'ho fatto e adesso proseguiamo con quello che rappresenta questa antologia. Intanto vi devo dire che c'è una bella varietà dentro, è proprio divertente, perché le autrici sono diverse e quindi come tali portano la loro esperienza e le loro fantasie, quindi è in questo senso c'è questa grande varietà per cui non ci si annoia a leggerla e ogni racconto è una caramella, una chicca, come si dice, una tira l'altra, la patatina, insomma, no? Ecco, la patatina, come noi ne sappiamo qualcosa. Allora, detto questo, Margherita, nella prefazione che scrive per l'antologia, dice che questo progetto Lambda, nonostante appunto le ottime motivazioni che lo sottendono, ha difficoltà a decollare. Ora, la domanda che noi ci siamo fatte, noi che abbiamo deciso appunto di presentarlo, è quella di: ma perché? Perché i progetti che riguardano la nostra comunità, comunque qualcosa che esce, che va progettato e che esce, che potrebbe uscire dagli schemi dati, è così tanto difficile da portare avanti? E a questo proposito ci sono dei progetti, esistono delle cose che sono state, che magari hanno avuto successo, che insomma finalmente sono approdate a qualcosa di positivo. Ci riferiamo alla Casa delle Streghe, la Maison de Baba Yaga di Montreuil, in Francia, scusate, e che Thérèse Clerc, che purtroppo ci ha lasciato a febbraio l'anno scorso, è solo un anno, ed era una donna vecchia, appunto, grande, una femminista, lesbica, eccetera, eccetera, che ha voluto fortemente questo progetto, che è nato da una grande lotta, ma che la Francia evidentemente è più sensibile dell'Italia, no? Cioè, proprio rapidamente dico soltanto che il progetto è partito in Francia quando nel 2003 ci fu quell'ondata di grande caldo per cui le persone anziane, le persone vecchie, nelle sentire note ci furono molte morti. In Francia ci fu una sollevazione e che approdò a questo progetto, che è appunto una casa per le donne con mini appartamenti, eccetera, eccetera, quindi un progetto molto interessante. Poi ne possiamo pure parlare, però intanto lo potete anche andare a vedere tramite la rete, insomma, si trova molto materiale ed è tuttora attivo. E in Italia invece nel governo Monti, tanto le chicche sono sempre queste, Monti disse ai nostri vecchi e ai nostri anziani di andare nei supermercati, nei centri commerciali, perché c'era l'aria condizionata, così almeno stavano bene. Ecco, insomma, queste le differenze insomma, di cultura nella nostra vecchia Europa. Detto questo, però, esistono anche, cioè, a parte le nostre esperienze, quante volte ne abbiamo parlato, quante volte magari abbiamo anche provato a fantasticare, però al di là del fantasticare non si va, però anche in Italia ci sono stati progetti di certo respiro, e ci riferiamo all'esbizio delle compagne le Deserate di Bari, che ne fecero proprio un progetto, un progetto aperto, interlocutorio, eccetera, dove loro parlavano di patrimonializzare, parola molto difficile, non soltanto il denaro, ma la cultura, il portato culturale, le nostre esperienze, quindi le nostre vite, metterle in comune e quindi renderle patrimonio collettivo. Ma per quanto abbiano cercato di portarlo in giro, eccetera, lì è rimasto, e tant'è vero che l'hanno ritirato, e vi garantisco che in questi giorni l'ho cercato in rete, l'hanno proprio ritirato, non si trova più. Quindi ci dovremo riflettere su questo. Allora, la prima domanda che rivolgo, e la rivolgo a tutte e due, quindi, perché tutte e due sicuramente hanno da dire su questo, a questo proposito, è: secondo voi perché? No? Perché per noi donne, le lesbiche, e quindi uno spunto, un briciolo di ragionamento, se noi come donne, nasciamo donne, no? Mettiamola così, abbiamo un percorso delineato dalla cultura dominante, dal patriarcato, dall'eteronormazione, per cui sei donna, quindi che fai? Ti fidanzi, diventi moglie, ti sposi, fai figli, eccetera, eccetera. E quindi non vivi un qui e ora che determini tu, sì, vivrai pure il momento, ma è tutto determinato da altro e tu devi soltanto uniformarti. Ma per le donne, le femministe che tanto hanno fatto, eccetera, ma per noi lesbiche, questo, siccome viviamo altro, viviamo un qui e ora reale che è determinato da noi, da scelte che facciamo, che non stanno in quei tipi di compatibilità. E allora, perché, la domanda è perché, appunto, è perché il lì e dopo non ci riusciamo a progettarlo? E comunque, è per parlare, non è una risposta esaustiva da dare, ovviamente, ma è un parlare tra di noi. Tanto Delia ti tocca pure a te, sai? Questa è una domanda così impegnativa che veramente è una... Perché non riusciamo a progettarlo? Allora, non lo so, non riesco a rispondere. Penso che sia, dico la prima cosa che mi viene in mente, che sicuramente è quella su cui ho riflettuto di più. Cioè, è difficile pensare alla vecchiaia, cioè è difficile persino dire questa parola. Cioè, è difficile... Pensate che... è un'età che dovrebbe essere, come dire, un po' quella in cui si tirano le somme di tutto, no? Dovrebbe essere un'età che ha una sua ricchezza particolare, però invece viene negata probabilmente perché i vecchi a livello di società, di mercato contano poco e niente, perché il nostro valore è legato alla produttività e i vecchi, le persone anziane non sono più produttive. Qui addirittura poi ce lo siamo trovato questa cosa qua, perché quando le persone dicono: ah, ma over 60, ma per me over 60 vuol dire dai 60 in poi. E alcune l'hanno invece interpretata come dire quelle fra i 60 e i 65. Per cui difficilmente si poteva poi identificarsi o accogliere una storia di un'ottantenne, no? Meno male che abbiamo proiettato rapido finale, ecco, allora. Le donne si spaventano, le donne, gli uomini, non lo so, io non so se si spaventano gli uomini, non lo so, sicuramente si spaventano molte persone che io ci sono spaventate, ecco. Alcune, io posso dire quali sono state, per esempio... A Milano abbiamo fatto una presentazione, Anita Sone che ci presentava diceva: ma qui avete fatto tutte storie in cui ci sono queste anziane baldanzose che vanno in giro a fare conquiste, come non avete parlato degli acciacchi, della pensione, cioè delle cose insomma più reali. Lì c'è stato un po' di dibattito, c'era anche Nancy che invece ha detto, no, vabbè, ha fatto un intervento però secondo me fuori età, ma sotto. Comunque, diciamo che ce lo siamo chiesto, no? Poi possiamo ragionarci più sullo specifico di questi racconti. Se tu mi parli di realtà, di qual è il nostro problema, pensarci, io mi sono sempre ritenuta più vecchia della mia età, nel senso mi sono sempre portata avanti, probabilmente che in quanto sono il mio carattere, quindi non penso che ci siano tutti questi motivi sociali e anche non lo so, e anche culturali, psichici, culturali e psichici, che ci impediscono di fermarci su questa cosa, no? Che peraltro però è necessaria, perché comunque l'alternativa, diciamo, o si invecchia o l'alternativa è ancora meno piacevole, per cui dobbiamo affrontare anche quella cosa lì. E dicevo prima, questo progetto è finalizzato, ci sono varie associazioni che concorrono, c'è il Sandro Penna, l'Anda Terza Età, c'è un gruppo di scrittori Boston 40. Io sono stata incaricata di curare l'antologia delle donne, perché racconti di donne non ce n'erano, cioè questo è un progetto che nasce nell'ambito gay, diciamo maschile, loro avevano interpellato delle donne, avevano risposto solo in due, forse le due che hanno interpellato, perché non so se ne hanno chiesto, che ero io e un'altra. Dopo, quindi a un certo punto mi hanno detto, noi facciamo un'antologia che con 9 o 10 racconti di uomini e 2 di donne, non va bene, sbilanciata. Vuoi occuparti, vedere eccetera. Io ho chiesto a una serie di persone, alle scrittrici, alle donne, e mi hanno detto tutte sì subito, quindi non so se me l'hanno detto perché era il momento giusto o perché prima non gliel'aveva chiesto nessuno, comunque, e quindi nasce così questa cosa. Il progetto è totalmente volontaristico, cioè le autrici non hanno ricevuto neanche una copia. Sì, sì, questo è giusto che lo dica Margherita. Cioè se hanno una copia perché se la sono comprata, perché tutti i proventi vanno, vabbè, presi rimborsando le spese editoriali, perché c'è un'editrice che ha avuto, vanno a fare interventi di formazione per dei volontari che poi seguiranno per le persone GLBT della terza età che hanno problemi, no? Per esempio nel rapporto con le istituzioni, con problemi di casa, di salute, eccetera, per anche difendere e proteggerle dal fatto che da quella perdita di identità che poi aspetta le persone quando nel momento in cui sono più fragili e diciamo vengono come reinglobate in un mondo eterosessuale che li normalizza, no? che dà per scontato che il loro passato non sia diverso, non sia, insomma. Quindi questo è il progetto in sé. Vai Delia, ma certo, è la tua idea. Cerco di rispondere alla domanda di Lucilla. Io vorrei che la realtà non mi smentisse, cioè ogni volta che ho scritto delle unioni civili, e sono felicissima che abbiamo raggiunto questa legge, ho detto da oggi in Italia non c'è più una società con le famiglie a una dimensione, ma ci sono le famiglie. Ecco, io tra l'altro dico famiglia sempre al plurale, non dico mai la famiglia, mi viene dal cuore. Perché qui è verissimo quello che dice Margherita, che è difficile pensare alla vecchiaia, come è difficile pensare alla malattia, ma è difficile pensare anche a una famiglia che sia diversa da quella che noi abbiamo conosciuto. E io mi sono trovata, ahimè, 3 volte ormai nella mia vita a sperimentare l'anticamera della vecchiaia, cioè la malattia, una malattia molto invalidante, e ho cercato di capire come potevo organizzarmi, visto che la mia famiglia, cioè le mie 2 sorelle, stanno a Palermo e non ho una relazione, e ho sperimentato che cosa significa costruire una famiglia alternativa. Per esempio, mentre ero in ospedale, chi teneva il cane? Perché i cani in ospedale non possono entrare. E allora abbiamo fatto un giro di WhatsApp, e qui ci sono delle persone che hanno, amiche care ovviamente, che hanno aderito, e chi si prendeva cura del cane. E attraverso il gruppo WhatsApp, la mattina e la sera, qualcuno andava a prenderlo, Ehi, vuole parlare lui. Quindi aggiungerei, facciamo difficoltà a pensare alla vecchiaia, facciamo molta difficoltà a pensare alla fragilità, facciamo molta difficoltà a pensare a una rete di relazioni che funzioni e che sia alternativa alla famiglia. Però, ripeto, io vorrei che la realtà non smentisse quello che invece con molto entusiasmo, perché sono una persona molto entusiasta, scrivo sempre, effettivamente noi ci stiamo aprendo a una società che ha, utilizza la parola famiglia al plurale. Per esempio le esperienze del co-housing, no? Sono delle esperienze secondo me interessantissime. So da miei amici che i loro figli trentenni, con appena un figlio, si stanno organizzando per creare il co-housing, per esempio sul raccordo anulare, ma non lo fanno come quando eravamo creature noi, che c'era la comune e quindi viviamo tutti insieme. No, fanno una cosa strutturata, frequentano i corsi per stare nel co-housing, perché non è facile stare nel co-housing. Però nel co-housing io penso che ci può essere la famiglia nucleare, la famiglia nucleare in senso sia eterosessuale che omosessuale, e però ci possono essere anche i gruppi di amiche, le persone single, cioè ci potrebbe essere una varietà. Ora, noi abbiamo tutte le carte per farlo, credo che il problema sia proprio questo: noi facciamo una grandissima fatica a non pensarci così come siamo quando siamo in salute e siamo intorno ai 50, 52, 53, perché poi si apre tutto un altro mondo. E io credo, per esempio, a me la malattia purtroppo mi ha ferito moltissimo, come potete immaginare, però contemporaneamente mi ha insegnato tante cose. Mi ha insegnato l'incertezza, cioè familiarizzare con l'incertezza. E non mi spaventa un'altra persona che è malata, oppure che è anziana, oppure che è a disagio, però ci devi passare. E quando per esempio ti ammali, pensi, cioè prendi come, cioè sbatti la testa al muro, cioè se ti ammali davvero, non una cosettina che ti passa dopo un mese, e dici, ma come ti è capitato a me? Cioè hai veramente una sorta di trasformazione identitaria. E per esempio, io sono molto grata a Margherita, oltre ovviamente a voi che fate questa presentazione oggi. Margherita mi ha chiamato per scrivere in un momento in cui io ero alla seconda chemioterapia, e vi devo dire una cosa: io mi sono divertita tantissimo a scrivere questo racconto. E sapete perché? Perché ci sono situazioni nella vita in cui la vecchiaia è una meta augurabile. Grazie, sono stati toccati temi, no, come vedete, molto profondi e che ci riguardano tutte, insomma, che per esempio hanno toccato tutte e due, sia Margherita che Delia, il tema proprio dell'identità. Se noi passiamo una vita come donne e come lesbiche a cercare di costruire un'identità alternativa, poi ci possono essere degli inciampi, che non è solo la vecchiaia, appunto, come diceva Delia, ma può essere appunto una malattia. Che può essere invalidante, ma comunque qualcosa che interrompe questa costruzione, perché anche in questo caso non c'è un pensiero, no? E quindi pensare su di noi e fare veramente un percorso su quelle che possono essere le nostre aspettative, che, a partire però da quello che noi viviamo e da quello che noi sentiamo, dai desideri che noi esprimiamo, perché noi abbiamo sempre detto che il desiderio è fondamentale e non può essere indotto, no? Anche se la società ci costringe, ci induce a una serie di desideri, che però a quel punto sono desideri coatti, non sono desideri miei, e questo è un processo al quale dovremmo incominciare a pensare, soprattutto in una società come la nostra, quella europea, che sta veramente, ora dico decadente, passatemi il termine, cioè è una società vecchia, allora perché non ragioniamo sulla vecchiaia visto che è una società vecchia? Allora, alcune cose Margherita l'ha già dette, io vorrei che ci spiegassi un po' di più se è possibile, e se Delia conosce qualcosa anche a questo proposito, se questa associazione Lambda, quindi, se questo progetto è un progetto legato solo alla realtà torinese, e se credo che in questo momento sì, però sinceramente devo dire, io ammetto una cosa, io non ho un grandissimo contatto, non ho avuto questo grandissimo contatto con loro, no? Quindi perché non lo so, sarà per quella difficoltà che c'è a volte all'interno di una stessa comunità, fra parti molto diverse della stessa comunità, certo. Cioè, per esempio lavorare con i gay, che è una cosa che non è sempre semplice. E in questo momento sicuramente è un progetto che si muove nell'area torinese, e però l'associazione Lambda non è solo, cioè l'associazione Sandro Penna è molto locale, cioè è una cosa che io conosco come una realtà locale. Non anche, cioè, per quello che invece dicevi tu, progetti di vita altro insieme, genere, di altro, esatto. Ecco, io so che anche a Torino, ne parlavo con le compagne di Torino, anche lì sono morti, sono finiti questi progetti, non sono stati sollevati qualche anno fa e poi si sono naufragati, come diciamo. Sì. Sì, e tu Delia, a parte che hai parlato di questo quasing, che però è più a largo spettro, mettiamola così, sì, no? Sì. E ne hai conoscenza quindi di qualcosa che si muove qua, in questa zona? Sì, diciamo è una cosa più informale da una parte di quanto noi non pensiamo, però ci sono appunto gruppi non soltanto di persone age, ma anche di giovani che si proiettano su questa dimensione. Andiamo 10, 8, 9 gruppi a vivere fuori, quindi la terra, quindi l'orto, quindi una serie di servizi che metti insieme, una macchina grande, una cucina grande, cosa che io mi ci iscriverei subito, diciamo, no? Perché e quindi stanno sorgendo, il housing esiste, però noi lo pensiamo in un'altra dimensione, cioè noi pensiamo alle persone o gay o lesbiche che vogliono fare tutto questo. Io questo non ho notizia in Italia. No. E poi scusate, ma potrebbe essere anche, si può pensare anche in varie maniere, potrebbe essere più rivolto alle persone anziane o alle lesbiche anziane, cioè, ma potrebbe essere anche un progetto che coinvolge invece categorie diverse di persone, che forse è anche più difficile, ma sicuramente più integrato. Certo. Sì, ma infatti. Progetti in questo senso ne sono stati fatti tanti. Cominciare dall'inizio anni 90, c'era un bellissimo progetto. Mi pare che il cuore fosse la lista lesbica, o comunque appartenente alla lista lesbica in Sardegna, una cosa meravigliosa. Sono progetti che sono partiti e sono morti lì. In Toscana lo stesso era partito un progetto di acquisto insieme di un terreno con una casa, eccetera, eccetera, poi è morto lì. Ma cioè, tu dici casa. Tu dici casa Spazio Donne in Toscana? Non mi ricordo come si chiamasse, ti parlo di 20 anni fa. Sì, cioè io ci partecipai, per cui per questo ti dico, però più di 20 anni fa. Sì, parecchio di più. 29 anni, giovani, aveva 10 anni, quindi faccio in fretta a ricordarlo. Però sono progetti che muoiono, perché al di là del fatto che sarebbe già di prendere atto che la società italiana, parlando della cosa di Francia, sì, la Francia, ma come quasi tutto il resto dell'Europa, è virgolette abituata alla diversità, chiusere virgolette. Noi in Italia no. Noi in Italia siamo un paese mentalmente vecchio e scatolato, sia dal cattolicesimo pesantissimo, sia proprio dalla struttura sociale. Cioè siamo vecchi, non perché abbiamo 70 anni come me. Siamo vecchi perché siamo rigidamente attaccati a tutto quello che ci sembra di conoscere. Non è casuale che da noi non ci riunioni civili siano arrivati adesso, non è casuale che non si parla minimamente dell'adozione, anzi questo terrore e non è casuale che noi virgolette lesbiche non riusciamo a fare società. Cioè, noi non siamo una società, non siamo un gruppo sociale, lo sono molto di più. Mi spiace, cioè, lo riconoscerò, ma i gay lo sono. È vero, noi è vero. No. Certo. Quindi È ovvio che iniziative possono partire, ma se non siamo noi a fare i conti con le nostre difficoltà, che nascono e crescono con noi, no? Nel senso che noi siamo cresciuti in questa realtà, per stancarci da queste, per accettare la diversità, dobbiamo fare un grosso sforzo. Io ho un'amica di 29 anni e tutti mi dicono: che cosa ci scambi? La diversità. Cioè, è molto semplice, ci scambio tutto quello che è lei e che non ho io. Però questa cosa viene vista come: ma che cosa, di che cosa parla? Della sua vita e della mia, che sono ovviamente diametralmente, poi vabbè, comunque, lontane nel percorso, ma questo non vuol dire niente. Se certo. Scambi l'uguaglianza. Certo, abbiamo finito di parlare, certo. Grazie. Però è così. Grazie. Allora, leggiamo un pezzettino dalla prefazione. Ed è Nancy. Sì, che va a smontare tutto questo discorso sulla vecchiaia invece. Sì, perché adesso abbiamo fatto un po' le tragiche, però Margherita invece. Vai. Oh, scusami, vai. Invece nella presentazione. Questo. Nella presentazione ci dice anche altro che è invece carino. Almeno per quello che riguarda noi lesbiche, e su questo, beh, ci riconosciamo anche. Per secoli la vecchiaia ha significato per le donne l'invisibilità, la perdita dell'unico dubbio potere che veniva loro accordato, quello della bellezza. Questa è dalla prefazione. Per secoli la vecchiaia ha significato per le donne l'invisibilità, la perdita dell'unico dubbio potere che veniva loro accordato, quello della bellezza, definita sempre ovviamente in funzione dello sguardo maschile. Per le donne che amano le donne, l'invisibilità in tutte le età della vita è stata fino a pochi decenni fa la norma, pena la condanna sociale. Cos'è cambiato in quest'epoca di eterna gioventù, di caduta dei tabù e delle certezze? Questo libro dà protagonismo a quel soggetto doppiamente nascosto, che sono le donne lesbiche non più giovani, di una certa età o decisamente vecchie, le abitanti insomma di quelle lande non più desolate che si stendono tra la menopausa e la morte. Sembra che questo popolo oscuro non se la passi male e abbia perfino voglia di divertirsi. Nonostante gli acciacchi, le inevitabili delusioni e le occasionali depressioni, fervono gli amori e i problemi. Ci si lascia e ci si prende, si fa amicizia, ci si aiuta, qualche volta si litiga e soprattutto si gode di quella libertà che viene solo con gli anni, avendo imparato a fare i conti con la vita e con se stesse. Ecco, così vengono fuori anche degli aspetti che sono positivi della vecchiaia. No, io faccio un esempio per tutti, quando... per tutti gli esempi, non per... hai sbagliato tu. Ecco qua. Allora, per tutti gli esempi, appunto. E cioè, io per lavoro vedo molte persone e quindi ho un rapporto con il cosiddetto pubblico, no? E un rapporto anche di grossa vicinanza, essendo una fisioterapista, quindi è questo l'arcano. Quando mi chiedono l'età oppure si entra in confidenza eccetera, io dico ho 60 anni, io sono anziana, ed è una cosa che non si accetta, cioè la risposta in genere è quella, e dico io sono anziana perché ho 60 anni, mia madre ha 84 anni e è vecchia, è chiaro? Cioè c'è una distinzione, c'è a un certo punto una delimitazione, e qui vengo sempre sconfessata e mi viene detto no, ma anziane si è molto, e dico capito, allora a 105 anni sarà vecchia, forse fino a 104 sarà anziana, però insomma non, cioè, riappropriarsi anche di tempi, dicendosi è così, ho un'esperienza, ho delle cose da dire che posso portare, altrimenti significa sempre non riconoscere, e questo non riconoscere ci porta ad accantonare appunto una possibilità di progetto, come stavamo dicendo. Allora, la domanda, tra voi autrici, parzialmente alcune cose Margherita l'ha già dette, però le autrici le ha appunto contattate lei, come è andata? Avete fatto una sorta di dibattito intorno a questa cosa? Avete stabilito delle regole per la stesura dei racconti, c'è stata ampia libertà, però questa cosa ha creato una mini comunità, in qualche maniera ci sono stati, che ne so, insomma, com'è stato questo progetto che comunque avete condiviso, al di là della cosa grande per la quale vi ringraziamo tutte, cioè di aver rinunciato a qualsiasi, non saranno sicuramente proventi, non saranno certamente miliardari, si sa, però insomma è un atto molto bello, quindi grazie. Allora, al di là di questo, si è creata una comunità delle scrittrici intorno a questo progetto e magari un'idea di andare oltre? Andare oltre. Adesso vediamo. No, le due cose comunque non sono in contraddizione, cioè il fatto di non riuscire a pensare di fare un co-housing tra donne lesbiche non vuol dire che nella vecchiaia non ci si possa divertire, eh? Assolutamente. Infatti molte delle nostre protagoniste in realtà non ce la passano tanto male, no? Però gli acciacchi ci sono, cioè la mia frase ci piace, c'è la cistite, e si barca bene. E allora, noi ci siamo ritrovate poi tutti insieme in una mailing list, perché poi Margherita e Consolata ogni tanto scrivevano e c'erano tutti gli indirizzi. Io alcune di queste autrici le conoscevo e alcune tra l'altro sono stata felicissima di ritrovare, perché Nicoletta Bonapace, per esempio, l'ho conosciuta al campeggio di Principina, cioè non so se un po' di anni fa, non so se mi rendo conto, cioè, della una cosa proprio sconvolgente. Poi ci siamo riviste per la presentazione di Soggettività Lesbica, che era il lavoro che avevano fatto loro con Anita Sonego, e adesso quindi tra il campeggio e i libri ci siamo ritrovate. Però ecco, insomma, poi abbiamo fatto, perché il libro va presentato e quindi non sempre ci possiamo essere tutte, e allora a volte abbiamo fatto una sorta di vabbè, tu mi scrivi due righe, sì, io te le scrivo, io le leggo, io le faccio, però nessuno ha detto facciamo un 9/62, mi pare. No, io l'ho anche pensato, perché la tendenza a mettersi nei guai è sempre presente. E il problema è questo, che questo libro appartiene alle fondazioni, a questa, certo, associazione di cui abbiamo parlato, cioè ai promotori del progetto. È in mano materialmente a un'editrice. Allora, diciamocelo chiaramente, tutto questo grande spirito di collaborazione e cooperazione è stato tale che ho detto la prossima volta, se devo fare un lavoro, cioè tutta la parte relativa al lavoro sul procuramento letterario per me è stato di soddisfazione, poi il lavoro invece organizzativo meno. Ho pensato, se devo fare un lavoro vorrei trovare una formula diversa, certo, no? Che potrebbe benissimo essere una formula di diamo tutti i proventi, ma va benissimo, tanto noi scrittrici siamo abituati a proventi, non sappiamo neanche cosa sono, cioè, al tirare la cinghia non è questo che ci causa problemi. Il problema è appunto, io vorrei pensare a un'altra formula o comunque un altro, dovrei pensare a delle, però si può proporre, cioè anche lavorando magari con gli stessi partner, però magari mettendo appunto il progetto in maniera più, che per me funzionasse meglio. Lo dico perché sono stata un po', diciamo, un punto di snodo di questo progetto, e quindi io l'ho pensato, perché ho pensato questo è solo l'inizio di una riflessione. Sei coraggiosa. No, però secondo me si potrebbe utilizzare la formula del blog, se giusto, se vogliamo, no? E chiedendo, io tante volte ho pensato di ritornare sulle principesse, perché poi non dico che l'Europa me lo chiede, i mercati me lo chiedono, ma me lo chiedete voi. Ci sono molte persone che mi scrivono, ma insomma, quando esce l'altro non esce l'altro. Siccome quel progetto aveva un costo e le autrici venivano pagate 500 euro, cioè fatevi i conti quanto veniva a costare, anche la curatrice, non 500 euro di più. E quindi ritrovare oggi una casa editrice che è disposta a spendere quei soldini è difficile, però questo non vuol dire che quel progetto non possa andare avanti, è scaglionato anche per l'età e tutto quanto, o altre cose che ci passano per la mente. Però un progetto potrebbe essere fare una sorta di blog e chiedere i racconti nel cassetto con una, un qualcuno, una, un qualcuno no, perché poi mi bacchettano, lo so. Una qualcuna. Una qualche giuria, come la vogliamo chiamare, insomma, un criterio di selezione ovviamente, perché non, cioè, questo è chiaro, non è che tutto quello che ti arriva tu lo puoi pubblicare, questo è ovvio. Quindi un gruppetto ristretto che seleziona una cosa del genere con, come si dice, anche una pessima pronuncia inglese, crowdfunding. Magari no, ognuno ci mette 500 lire e la cosa potrebbe farsi, per esempio, visto che stiamo parlando di... Sì, noi abbiamo qui qualcuna progetti. Che è oltretutto esperta in crowdfunding, almeno cioè, ci ha provato, no? Per il film. Cioè, noi qui abbiamo artisti a tutto tondo, in platea, quindi no? Senti, cioè, anche per i spettacoli, cioè lei ha un'esperienza in questo senso, perché cioè, funziona. Ora è chiaro che se già scarseggia nell'immaginario delle fiction, chiamiamo così, l'immagine della donna lesbica, che non è così diffusa, adesso un pochino di più, però insomma spesso le uscite sono più decorative che altro, cioè effettivamente la terza età è difficilissima da rappresentare, ma non solo per le donne lesbiche però, cioè attenzione. Se noi guardiamo dalla pubblicità ai film, cioè tu ti accorgi, a un certo punto ti ho fatto caso, dico, beh, sopra i 40 non c'è più nessuno. Giusto Sonia Braga in Aquarius, che è una cosa meravigliosa, però giusto che la legge tutto lei, perché sennò altrimenti no. Quindi questa è una cosa di cui secondo me ci sarebbe, si sente tanto, cioè voi siete qui, siete venute, no? Quindi l'argomento tira. Sì, e allora, continuando su questa idea di Delia, supportata come vedi, è un'idea che potrebbe andare, ma da quando è uscita, non è uscita da molto, però da quando è uscita, perché è uscita a ottobre, no? Quindi, da quando è uscita l'antologia ad oggi, avete avuto degli scontri tra le lettrici, oppure nelle presentazioni che avete fatto, avete tastato un polso della situazione tale che dice beh sì, ci possono essere idee da mettere in campo e questo aspetto può essere comunque sondato, indagato, eccetera eccetera. Ma è un esame che ci stai facendo. Io ho fatto una sola presentazione a Torino, devo dire, perché comunque era quella diciamo un po' più ufficiale del circolo dei lettori, ero incazzata come una iena. Per una serie di piccoli misunderstanding con l'apparato che stava dietro questo libro, non ultimo il fatto che la presentazione, io essendo io con l'altra curatrice torinese, c'eravamo dette una settimana prima, c'eravamo fatto tutto un progetto organizzativo, poi mi telefona uno di questi e dice dunque la presentazione verrà, io presento, faccio così, poi quella legge, poi voi rispondete, poi ci mettete, cioè c'è stato una specie di, cioè una regia, un format che è calato su di noi, ecco quello che dicevo un po' il discorso del lavoro con i gay che pone delle limitazioni. D'altra parte questo libro io me ne sono resa conto, era da loro, cioè mi è stato da loro affidato, io insieme alla mia Consolata Lanza, che è l'altra scrittrice torinese che ho chiamato a aiutarmi, meno male che c'era, l'abbiamo editato, che comunque editare, come tu sai bene, è un lavoro, che non è un lavoro, vuol dire prendersi cura, no, dei racconti, vuol dire che ti porta anche a volerli bene, li leggi tante volte, insomma gli fai un... Poi però appunto ci siamo resi conto che tutto questo lavoro apparteneva a qualcun altro, qualcun altro tirava delle file e per quello che dicevo lo vorrei fare in maniera diversa, ecco, forse lo vorrei fare in maniera più, posso dirlo, settoriale, solo più femminile, cioè solo più, insomma, mi piacerebbe fare questa cosa qua. Quindi no, io non lo so, di reazioni ce ne sono state... Non lo so, positive, forse quelle negative non ce le hanno dette, non lo so. Cade spesso. Tu cosa hai riscontrato? No, io ho riscontrato entusiasmo tra noi. E, tra noi nel senso tra voi 14 iscrittrici. Sì, entusiasmo. Molto entusiasmo e generosità anche, che è una cosa bella. Fantastica. No. E, per il resto vorrei vederlo girare un pochettino di più, ecco, il libro. Però questo è un problema legato anche alle case editrici, esatto. Molto piccole. Qui la casa editrice a cui ci siamo appoggiati è una casa editrice un po' una one woman band, come io ne ho conosciute parecchie, che per carità funziona, però chiaramente distribuzione zero, no? Cioè la distribuzione la fa sì. Quando glielo chiedono lo manda, almeno questo lo fa, però non è facile, ecco. Quindi il libro secondo me ha delle potenzialità, il tema ha grandi potenzialità, però c'è tutta una struttura insomma che va aggiustata. Però parliamo un po' di racconti. Parliamo un po' di racconti. Va bene. Sì, infatti se volete intervenire va benissimo, infatti anche perché per ora le cose che hanno detto non mi consentono di farlo. Io non le ho fatte le prime le domande, me le sono tenute per me, perché come ha detto Margherita era un'interrogazione e quindi va bene. Però in effetti dalle cose che hanno detto è inutile che io proseguo con quest'altra domanda che avevamo pensato, non io, l'avevamo pensata insieme. Però sui racconti, perché qualcuno di noi ha già letto, quindi, oppure qualcuno di noi si è fatta qualche fantasia e quindi ma interloquiamo anche su questi aspetti, che va benissimo. No, io vai Nancy. Naturalmente sì, la raccolta l'ho letta, poi sono stata anche a Milano alla presentazione. Rispetto a questo discorso sulla vecchiaia, come ho detto, Milano è un po' mi ribello a questa cosa, nonostante gli acciacchi e la menopausa, mi ribello, no, a questa visione appunto soltanto che sia di impedimento e di impossibilità, che poi voi ci date ragione in questi racconti, insomma, perché quello che viene fuori sono invece delle donne molto forti, molto decise, che ancora hanno voglia di mettersi in campo, di fare corna, di innamorarsi, insomma, quindi insomma, tutte queste cose. E io ero curiosa di sapere invece, proprio da, visto che abbiamo qui due delle scrittrici, come la vivete voi la vostra vecchiaia? Cioè rispetto al tuo racconto, rispetto al tuo... No, mi interessa sapere come avete vissuto. Poi sono io quella che interrogo, non so se mi spiego. Mi piacerebbe, no? Dei vostri racconti, perché quello di Delia anche, insomma, non è proprio... si dà da fare, ecco, sì, cioè, sì, ecco. È un protagonista sempre. E infatti questo, cioè come avete vissuto questo fatto di scrivere qualcosa su una vecchiaia e perché avete deciso di scrivere quello che avete scritto, quindi il personaggio di Delia e il personaggio di Margherita. Che cosa avete messo in campo voi? Come vi andava di raccontare la vecchiaia, questi 60 e oltre? Ma guarda, io a me è venuto da una parte la vena un po' ironica di prendere di mira un certo canovaccio un po' attrito al quale io assisto, no? Nel senso che ci sono delle coppie di vecchia data che effettivamente a volte mi fanno sorridere, ma non perché io non stia, ma proprio perché io ho evitato di trovarmi in una situazione del genere, quindi diciamo così, come coerenza me la posso anche prendere questa cosa. Quindi una parte del racconto è questo, cioè un po' l'ironia su che cosa significa poi avere un rapporto paludato con comportamenti da copione, con io so cosa dici tu, insomma, e però volere lo stesso stare insieme, quella situazione un po' difficile, che non sai se separarti, perché comunque c'è l'età, c'è tanto tempo passato insieme, però non ci stai tanto bene, no? E la situazione presa dal punto di vista macchiettistico fa anche ridere, perché ci sono delle situazioni caricaturali, no? E, dopodiché poi non c'è solo questo registro, Ma ecco perché mi sono divertita, perché la mia protagonista in realtà viaggia. E fa parte di una coppia in cui i ruoli si sono perfettamente distribuiti, cioè una non si muove ma neanche per andare a Ostia e l'altra invece parte per lavoro, quindi quale migliore scusa? E parte spesso per lavoro e manca tanto, però quando sta a casa invece è indispensabile, tant'è che prima di partire stipa il frigo di roba da, no, 6 kg di polpettine tutte messe in porzioni e tante cosette così. Quindi sono una che è un po' una sorta di Peter Pan, scusate, Pietra Pan. nel senso che una delle spie di questa Peter Pan femmina è che non riesce a guardarsi allo specchio. Il tempo passa e lei dinanzi allo specchio sfugge sempre un po'. Lo specchio è un bel appuntamento quando ci trasformiamo, no? E quindi lei si rinnova ad ogni viaggio. E, allora la cosa carina è che mentre appunto quando Margherita mi chiama e io sto un pochino così, insomma, con qualche acciacco, quindi... se una difficoltà ha la mia protagonista è che è arrivata dove è arrivata, cioè a Mauritius, poi vi spiego perché, e le prende la cestina, cioè vede una di cui effettivamente rimane invadita come mai nella sua vita. E noi non sappiamo quanti anni ha la protagonista, l'altra ne ha sui 65. E si becca la cistite al terzo giorno, e questo naturalmente non è una cosa tanto semplice da gestire. Ecco, però diciamo che questo viaggio è un po' una risorsa, e non è il solito viaggio, non è l'ennesimo viaggio in cui poi torna a casa e tutto ritorna come prima. Cerca di... dice a se stessa, vediamo un po' cosa succede. E, che ti devo dire? Io spero di arrivarci a vivere una vecchiaia così. La sensazione che ho andando avanti negli anni e vivendo queste strane situazioni di paravecchiaia, che è un certo tipo di malattia, poi io ne esco, quindi ritorno ad avere gli anni che ho, però insomma avere una chemio è come avere perlomeno 10-15 anni in più, poi ritorni. E, cioè io mi accorgo che vorrei non cambiare dentro, cioè gli anni cambiano, io adesso ho 56 anni e a un certo punto quando mia madre fece 70, le dissi, mamma scusa ma che cosa cambia? E le metto, non cambia niente, cioè dentro non cambia niente, è il fuori che cambia, cioè ci sono una serie di limitazioni, poi che dentro non cambi niente fino a un certo punto, però non cambia un certo tipo di atteggiamento. E, per esempio a me l'entusiasmo non mi è cambiato mai, oppure non mi è venuto difficile pensare a una donna che a 70 e passa, non vi dico l'età precisa perché sennò non arrivate alla fine del racconto, e si innamora, non mi è venuto difficile. E, ci sono anche degli esempi cinematografici che sono bellissimi di amori in età. E, quindi io credo che ho fatto una mia proiezione e penso che se ci si mantiene così e non ci si fa risucchiare da quelle abitudini di cui parlavo prima, questa sorta di sirena un po' noiosa, un po' ricattatoria che diventa la coppia quando le cose non funzionano, però tu ci resti lo stesso per una serie di motivi, perché hai paura, poi di coppie se ne formano tante, no? Poi ci sono anche le coppie delle ex, anche queste sarebbe una lunga da raccontare, no? Queste coppie che si trascinano e che però non c'è quella vitalità. Ecco, no, a me il mio personaggio mi fa tanta simpatia, perché in effetti si chiama Selvaggia e la sua diciamo innamorata la chiama in francese, perché appunto si chiama Mauritius, che si parla, la chiama Selvaggia oppure la chiama Cherie, perché in effetti si rimette in gioco, non sa quanto camperà, perché insomma l'età c'è, però si rimette in gioco. Ora, perché Mauritius? Perché tra questo gruppo di persone che mi aiutavano nel momento in cui io non potevo fare tante cose, tra cui anche portare lui fuori, c'era un'amica che era appena andata a Mauritius. E allora io, e tra l'altro c'era anche un mio, io chiamo figlioccio di professione, ci sono alcuni giovani giornalisti che è, tra virgolette, ho allevato e ne sono molto fiera, che lavora per Repubblica.it e ha i parenti che... una sorella che è andata a sposarsi con un uomo di Mauritius, quindi mi sono fatta raccontare tutto ed è come se io avessi fatto un viaggio con, insieme a loro, quindi mi sono divertita ancora di più. L'impressione, leggendo il racconto, mi sono detta, Delia sta raccontando di se stessa, l'ho detto anche a Rosina, credo. Sì. Ho detto, Delia sta raccontando, mi sembra di, che stia raccontando una cosa che vorrebbe o che ha, che ho fatto vissuto. questa riflessione. E la volevo talmente tanto che evidentemente si è trasferita, quindi ecco. Io nel mio racconto parlo di una donna che ho conosciuto, in realtà io il racconto non l'ho scritto per questa antologia, l'avevo scritto già prima. Ecco perché io avevo risposto tranquillamente al primo appello, perché io in realtà racconto di una donna over 60, cioè, ed è dedicato appunto a Tina. Tina era, io non so, credo che anche qui qualcuno di voi abbia conosciuto Tina Ducco, purtroppo è morta un anno fa, aveva 91, 92 anni, non so. Tina Ducco è stata sempre per me uno splendido esempio di vecchiaia, nel senso che di mezza età e di vecchiaia. Io quando l'ho conosciuta ero giovane e lei era già, insomma, c'era questa differenza di anni, aveva qualche anno in più di mia mamma, diciamo. E l'ho conosciuta nel gruppo femminista, primi gruppi femministi che ho frequentato a Torino negli anni 70. E poi insomma ci siamo sempre mantenuti in contatto, siamo state amiche, Tina era un'amica molto piacevole e molto, come dire, indipendente. Tina era una indipendente su tutti i fronti, lei ti veniva a trovare quando aveva voglia, e tutto ciò, tutto doveva accadere senza appesantimenti, no? E ha avuto tutto un suo percorso, la famiglia, l'abbandono, cioè il fatto di essere famiglia eterosessuale e poi la vita da single, però senza mai rompere con le cose, ci ha avuto tanti amori, ce li raccontava anche un po', che era una cosa sempre di grande, quando ci raccontava i suoi amori era molto, ci portava, uno l'abbiamo anche conosciuto, l'ultimo amore suo, l'ultimo, cioè insomma, se l'ultimo non lo so, comunque è cominciato quando aveva 67, 68 anni ed è andato avanti almeno un 10-15 anni, ed era una donna che stava in Olanda, quindi era un amore a distanza che le andava benissimo perché andava, poi tornava, insomma se lo gestiva. Allora io quello che ho voluto raccontare in questo racconto è quando lei andava a Filicudi, lei aveva, cioè come io ho centrato tutto un suo processo sul fatto che per lei andare in quest'isola da sola, a partire da tanto tempo fa, andarci è andata per 30 anni, ha rappresentato, come dire, una messa a punto del suo processo di emancipazione, liberazione e di liberazione dai ruoli. Perché lei nell'isola, Filicudi diceva proprio io, che lei era un'altra, lei era solo se stessa, lei non era più una moglie, l'isola serviva per fare il punto nel momento in cui lei non era più una moglie, non era più una madre, ma non era neanche più l'amante o cioè era proprio libera da ogni legame. Ecco, io ho voluto raccontare questo, insomma, perché per noi Tina è stato un esempio meraviglioso, nel senso che Tina, per chi non l'ha conosciuta, era una donna frigolina, che non so, era una donna minuta, magra, molto vivace, molto attiva, molto anche molto agile, molto che una donna che diciamo portava molto bene la sua età e molto, molto libera, ecco. per me è stata proprio un'idea, l'idea della libertà, la conquista della libertà attraverso quella, perché non era che gli venisse, cioè lei ha fatto tutto un lavoro, è un processo di libertà. Ho voluto raccontare quello. Poi per me la vecchiaia è sempre stato molto un argomento appassionante, perché io ho amato i vecchi da bambina, perché negli ultimi anni ho visto la vecchiaia di mia mamma e ho perso mia madre, e è un tema che in questi anni mi ha sempre accompagnata. Per esempio nel libro di cui parleremo domani, e chiedo scusa di questa piccola digressione, di questa invadenza, che comunque sì, anche lì c'è, alla fine c'è una donna, che c'è una vecchia, no? C'è una donna che, vabbè, vediamo giovane e vecchia. Per me è un tema estremamente importante, quello della vecchia. Posso dire una cosa? Certo. Allora, io chiaramente, volendo parte del CLR, ho letto il libro, ho letto tutto, e la cosa che mi è piaciuta di più del libro è proprio la differenza delle tipologie, perché ogni donna ha una sua storia, una sua identità, un suo modo di affrontare la vecchiaia, ma il rimando che tutte distintamente mi hanno dato è sicuramente una sensazione di forza, e che non aderisce a quello che la società vorrebbe che fosse. L'idea della vecchiaia come tristezza, come solitudine. E poi volevo dire anche un'altra cosa un po' particolare a Delia, perché tu hai detto che ci sono momenti nella vita, situazioni diverse in cui la vecchiaia può diventare una cosa augurabile, no? Allora, io che ho una malattia invalidante da quando avevo 18 anni, ti posso dire che comunque ho avuto un bel allenamento a fare la vita rispetto con delle difficoltà. Però la cosa che a me ha sempre dato un rimando di forza è il mio stare in questa famiglia allargata, che è al di là della mia relazione affettiva che ho combinato da 25 anni, è avere accanto donne con le quali si condivide. Allora, tu hai detto che magari per affidare il cane, quando avevi la necessità di lasciarlo, ti sei rivolta comunque a donne. Allora, per me questo... No, anche ho fatto un gruppo, sì, anche uomini, persone, era un gruppo di affetti cari. A persone. Ecco, però ti dico che la famiglia allargata per me è questo, il mio concetto di famiglia è questo, capito? E lo sperimento da diversi anni, e quindi è una cosa che ho riscontrato nella diversità dei racconti dentro, capito? Quindi è una cosa possibile ed è bella. Ok? Grazie. Quindi avete risposto anche a un'altra domanda, volontariamente. No, che è quella, appunto, se i racconti erano già nel cassetto oppure sono stati confezionati per questo progetto. Avete detto tutte e due, una l'ha fatto appositamente e l'altra ce l'aveva. E quindi niente, quindi penso che questa cosa sia andata un po' più o meno per tutte. Immagino per esempio per Sara Zandì. Il suo racconto bellissimo, il racconto di Sara, che non è un racconto ma è l'inizio di La cima della stella, è stato un altro intervento, cioè per me è stato molto importante metterci Tina e Sara in questo libro. Io ce lo volevo molto questo fatto, perché sono donne più grandi di me che sono state molto importanti per me, che mi hanno veramente dato un'immagine, un'idea, non solo la loro amicizia ma il loro esempio, la loro idea, l'immagine che mi hanno dato di percorrere quel tratto di vita che era più avanti di me, no? Cioè che io ancora non ero arrivata ancora. Quindi, ed erano, io le ho ammirate queste donne, e volevo metterci, cioè, anche quello del racconto di Sara, appunto, cioè l'inizio di un suo scritto. Altre credo che lo abbiano scritto per l'occasione. Sì, tra l'altro poi ci sono una serie di altre donne che conosciamo, insomma, che sono proprio scrittrici, di cui abbiamo visto, letto, eccetera, e poi c'è anche la Pagarini, che è stata un'altra nostra ospite, quindi Michela, quindi insomma, il libro è... E poi la cosa carina, almeno io ve l'ho detto all'inizio, cioè è proprio bello perché ogni racconto è diverso e non è che sono tutti spumeggianti oppure tutti ironici oppure tutti, che ne so, allegri o tristi, no, trovi tutta una serie, spesso anche nello stesso racconto trovi proprio un percorso, ma che poi alla fine ti dà un senso di leggerezza, l'insieme ti dà un senso di leggerezza e ha un ampio respiro. Questo è quella, almeno questa è stata la mia percezione. Quindi se nella vostra intenzione, al di là del progetto, la casa editrice, il gruppo che è, eccetera eccetera, però se nella vostra intenzione, quando vi siete parlate in chat avendo creato il gruppo eccetera, avete poi condiviso questo aspetto, non lo so, beh, questo almeno dal mio punto di vista, questo è venuto fuori molto bene. Non l'abbiamo fatta apposta, no? È venuto così, giusto? Io devo dire, rispetto sempre molto il fatto che ognuno scrive quello che vuole, quindi l'intervento in fase di... cioè io ho solo detto deve essere parlare di donne dai 60 in poi, poi qualcuno parla, alcuni racconti parlano di donne 50 e qual, insomma non volevo proprio mettere un taglio netto, perché per esempio il racconto di Nicoletta Bonapace parla di quel momento in cui diventa difficile dire, che manifestare il desiderio, perché non ti rendi conto che non sei più una splendida giovinetta, perché sei insomma in quel momento lì, insomma non, lei parlava di quello, mi sembrava anche importante, no? Poi era l'unico racconto che lavorava molto su due cose, che è una scrittura molto intima, molto lirica, e si lavorava molto sul sogno e la psicanalisi, quindi erano aspetti agli altri racconti non trattati, cioè voglio dire c'è una varietà, ecco. Sì, infatti è questo, la cosa carina è proprio questa, che c'è una grande varietà. Sì. E quindi, e poi adesso posso fare io una domanda a Delia? A voglia. No, perché io questi racconti li ho letti tutti prima, più e più volte, e volevo invece sapere qual è stata la tua impressione, no? Cioè io l'ho vista in fieri, uno per volta mi arrivavano. Devo dire, straordinariamente, tutti hanno detto sì subito, sono stati puntuali, ligi, una cosa mai vista. Qual è stata invece la tua prima impressione quando hai avuto il libro in mano? Ma quando l'ho avuto in mano sono stata contenta, anche perché è cambiata la copertina. Questa seconda copertina mi piaceva molto più della prima. La prima c'erano quelle due mani, sì, che sembravano il Partito Comunista, con tutto il rispetto, però no, sembravano due mani di lavoratrici e dietro c'era tutta una cosa rossa, due mani. Quindi ho detto, dico, abbiamo sbagliato l'antologia. Poi invece quando è venuta fuori questa copertina qui, anche su, no, penso che sia stata una cosa, io non mi sono pronunciata perché non mi sembrava corretto dire sì, mi piace o non mi piace. Adesso però che è stata accettata la nuova versione della copertina, sono molto contenta. No, in effetti le due mani devo dire piacevano solo a me, l'ho scoperto dopo. Quando ho visto le due mani, cioè poi tra l'altro avevo recensito Over 60 per il sito Andos e aveva una copertina tutta caruccetta, tutta spumeggiante, invece sono arrivate le due mani con questo drappo rosso dietro, davvero ho pensato, dico, sono due mani che conoscono il lavoro, no? Perché in più col rosso dico, vabbè, il primo maggio, che è bellissimo, per carità, figuriamoci, io ero esaltata, però mi sembrava di aver ricevuto un altro libro, ecco. E invece questa valigetta col cappellino? Questa secondo me, ora io l'altro giorno avevo fatto in previsione anche di questo nostro incontro un lavoro che mi piace fare a volte, cioè per esempio vedere quanto ricorre una parola nel testo. E, per esempio la parola viaggio ricorre molte volte nei vari racconti e quindi secondo me è più che azzeccata. Sì, no, questa è un'idea della Michela, la valigia perché c'è il viaggio, no? Cioè, quando... quella è la valigia proprio. È vero, cioè c'è scritto secondo me, no? Sì, Maurizio. No. Perché c'è la sciuramano, gli occhiali da sole, ecco. Quindi in questa versione Rispetto al contenuto sono rimasta colpita dalla varietà e contenta della presenza della poesia. Ah sì, ecco, non abbiamo parlato della poesia. Che in genere, sì, ma perché, no? Perché questa è una chicca finale. È anticipata. Ma va benissimo. Colpita più da alcuni racconti e di altri meno, per cui io per esempio volevo fare la recensione del libro, però devo dire, confesso, non ci sono riuscita, perché non sono riuscita ad avere quel distacco e quindi ho preferito non farlo. E quindi la sensazione di una grande varietà è finalmente questa poesia, perché le donne scrivono molte poesie, no? Cioè è vero che ci sono i romanzi nel cassetto e tutti vorrebbero pubblicare, però anche la poesia è una misura molto diffusa e la poesia è difficilissima da editare, cioè per tutti, cioè maschile, femminile e neutro, cioè difficilissimo assolutamente. Per cui avergli dato spazio mi sembra un'ottima cosa. E, ecco, questo posso dirti che ho amato, visto che sei presente, e tu sai che io non sono una persona che parla bambera, io il tuo racconto l'ho amato molto. L'ho amato molto perché è un po' un racconto fuori dal coro. Effettivamente è vero, c'è cioè in quell'isola che ho capito essere un'isola delle mie, infatti quando tu hai detto Pirigudi una cosa dentro di me si è accesa e ho detto ecco c'era la Sicilia di mezzo, e, è vero, c'è cioè un'isola di libertà che poi diventa una libertà portata nel luogo dove è questa donna dove lei vive, sì. Vive. Ma questo era proprio un racconto biografico, cioè io ci tenevo molto di metterci una verità così come l'avevo conosciuta, no? Era un omaggio a Tina, poi un racconto che l'ho scritto tanti anni fa, l'ho limato, rivisto, cioè un lavoro particolare. In più Tina era morta da poco, quindi mi sembrava veramente, per me era la cosa assolutamente... Ma Tina l'ha letto questo racconto? Io ho scritto 3 racconti per Tina, la musa, sì sì, lei li ha letti tutti. E che diceva? E Tina non si sbilanciava mai, secondo me era più contenta, saltellava un po' su un piede, poi sull'altro, così, metteva le mani dietro, cioè, le piaceva, penso che le piacesse essere una musa, però era una donna così che non mica si concedeva, era il suo bello. Era la sua libertà, era non concedersi. Sì, sì. Sì, io devo dire sul tuo racconto che dove abbiamo fatto, poi te l'ho anche telefonato, il tuo racconto l'abbiamo letto e riletto più volte, perché l'editing è questo, e devo dire grazie alla punteggiatura che ti abbiamo un po', siamo un po' andate a ritoccare le virgolette, io a un certo punto ti ho fatto una telefonata in un tono apologetico dicendo abbi pazienza, io so com'è odioso trovarsi una pioggia di virgolette, scusate, una roba sì, così. Infatti non c'erano. Non c'erano, però questa è stata una delle cose su cui sono state inflessibili, cioè l'unica cosa di contenuto, la punteggiatura e le virgolette, e io ho dovuto mettere... Le virgolette nel discorso diretto. Mettere sì questa roba tremenda delle virgolette dappertutto appesantisce un po', però e abbiamo dovuto farlo, ecco, quindi mi dispiace, però è stata una richiesta della casa editrice, sì, esatto, cioè perché questo libro doveva avere la stessa impostazione tipografica di Over 60 Men e quella della casa editrice, diciamo che Over 60 Men c'erano le virgolette, sì, ci dovevano essere pure lì, ma tra l'altro era proprio c'erano donne. C'è una torta. C'è una torta che io non mangerei mai, ha un aspetto benefico, colori acrilici. Comunque no, è una sono le torte americane. È una torta sono di torte compleanno. Americane. Sì, sì. Rainbow, esatto. Rainbow. Eccola qua. Questa è la copertina. Vabbè, noi i colori non si vedono perché è bianco e nero, però è una fetta di torta. Una fetta di torta. Molto colorata, tutta proprio quasi arcobaleno. E questa è comunque una cioè dicevo leggendo il tuo racconto che ogni volta che lo leggevo mi piaceva di più, non so come dire, c'era proprio questa cosa e infatti anch'io ero convintissima grazie a queste virtù. Che veramente c'era, una tua, che, perché il modo come racconti l'isola, i colori, il vento, la vegetazione, era... E infatti io... No, ma a me è successo quest'estate che io ho detto a varie persone, dico mandatemi le foto delle vostre vacanze, perché così io faccio tutte le vacanze che fate voi. Cioè non mi veniva il fatto io non ci vado, mi veniva invece, oddio, e quindi ha funzionato perché... E oltretutto c'era appunto questo amico che si chiama Pasquale Quaranta, che io considero un mio appunto figlio professionale, e mi ha raccontato in lungo e largo, lui c'ha nipotini che sono di Mauricio, insomma, quindi era così, stavo lì. D'altra parte la scrittura è questa, no? Sì, anch'io non sono mai stata felicissima, però Tina me ne parlava. E quindi... No, la scrittura è... E questo ci ha portato, e questo su anche... Scusate, voglio... Cioè, abbiamo fatto un'altra riflessione, almeno io le lancio due riflessioni. Una era quella, la differenza fra il libro delle donne e il libro degli uomini. Allora, nel libro degli uomini ci è sembrato, se ne parlavamo con Consolata, che... Metti il microfono davanti. Sì, scusate. È che loro parlano di più, secondo me, del riconoscimento sociale. Ci sembrava che ci fosse di più una tensione verso... l'essere riconosciuti come gay, come coppie, come, cioè, mentre le donne andavano di più verso un realizzare se stesse. Ecco, hai avuto questa impressione? Allora, io ho avuto nettissima questa impressione, tant'è che quello degli uomini un po' a un certo punto mi ha un po' scocciato, nel senso che non perché non siano interessanti, però si ritornava spesso a questa cosa. E adesso no, ci sposiamo, ripeto, cioè sta parlando una che ha dato l'anima per le unioni civili, però poi quando diventa un tasto, che pigi sempre quello, insomma un po' ti annoi. Però devo dire una cosa, io credo che per le donne la scrittura sia un enorme spazio di libertà, cioè non vuol dire che nella vita reale e noi non abbiamo lo stesso da parte di tante coppie, magari di età di 30, 40, forse leggermente più giovani di noi, questo desiderio di riconoscimento sociale. Io lo vivo come molto forte, mi arriva come molto forte. Adesso mi sposo, adesso faccio una bambina o faccio un bambino. È stato molto bello non trovarlo qua, perché secondo me qui, essendo appunto la pagina scritta, la pagina scritta è ancora un presidio di libertà. Vabbè, interessante questa riflessione, sì. C'è un racconto in cui però due che si aspettano ormai, non so, da tipo 30 anni, Biglia e Bianca. E insomma, è una storia molto particolare perché si amano da quando erano ragazzine praticamente, però si perdono nelle vicissitudini della vita, una da una parte, una dall'altra, e dopo un periodo di tempo discretamente lungo, forse io non avrei aspettato così tanto, dico la verità, finalmente si ricongiungono e proprio in occasione dell'approvazione delle leggi, della legge sì, sulle unioni civili, e quindi dopo tutto questo tempo sì. Ci sono praticamente però se ci pensi, il tempo della narrazione è estraneo a questo. Il tempo della narrazione è un altro, è proprio questo darsi sempre un appuntamento in fondo che nessuna delle due elude, no? Esatto, sì. E poi alla fine si conclude in questo modo che sembra un po' di essere un po' felici e contenti. Sì, sì, no? Sì, che sembra però anche un po' appiccicato alla d'altra parte. No, era un momento. Esatto, ci vanno un po' la situazione del certo. Però è l'unico, ed è proprio in quota, mentre invece non so se voi avete letto quella degli uomini, cioè questa tematica c'è, credo anche il primo, no? Che l'altro c'è i figli, insomma si ripete molto di più. E l'altra cosa su cui abbiamo fatto una riflessione è stata, noi sempre nell'ambito del lasciare la massima libertà, di considerare l'autrice, la scrittrice come dire, la sua pienezza, le sue facoltà e libertà, noi non abbiamo considerato di chiedere dalle autrici solamente, cioè a me non è venuto in mente di chiedere solamente ad autrici anziane, Ah, certo. Per cui alcune di queste autrici sono quarantenni. Sì, sì, questo l'avevamo notato, sì. Ecco, volevo capire, secondo voi si... No, allora io su questa cosa ho fatto un dibattito proprio con Nancy, e nel senso che appena, sarà perché io sono già sessantenne, Nancy invece appunto è cinquantenne, e quindi su questa cosa io la prima cosa che ho fatto mi sono... Ricordo di che sono in quella landa tra la menopausa sì, e la sì, anche più lo so. Mi ricordo nel mezzo della landa. Però lì per lì era come se mi fossi sentita punta nell'onore. Ah, ma che vogliono queste dei 40 anni? Che ci hanno da dire? E lei mi ha detto, perché scusa, la scrittura è un fatto creativo, mi ha detto Nancy, mi ha detto non solo, ma poi cioè, ci vuole l'immaginazione, eccetera. E io ci ho messo 24 ore perché sono un po', cioè nel senso sono lenta, sarà l'età. E quindi ci ho riflettuto e poi ho aderito tranquillamente a quello che lei diceva. Cioè nel senso che è vero, è così. Nel senso che io quando ero più giovane ho immaginato delle cose, non solo relativamente all'età, no? E quindi mi sono data il permesso di, perché non lo devono avere anche le altre persone, cioè nel senso che non è che stanno raccontando di me, cioè di me medesima, come dicono quelli. Sì. Quindi va bene, e l'ho trovato un atto di libertà e anche una sfida e soprattutto un modo di unire, quindi di avere uno scambio, insomma. No, dice, ma se anche su questo appunto cioè anche su questo nasce un confronto, un ragionamento, certo. Ma proprio sul fatto che alcune cose sono dette dall'interno di un'esperienza e altre sono dette in una proiezione, in un'immaginazione, certo. E forse si capisce, ma anche questo è bello, infatti completa questo un quadro insieme. Io non so chi è l'autrice più giovane, forse è proprio la Pagliarini, e il suo racconto era veramente delizioso. Sì. Credo che la più giovane sia Elettra Groppo. Elettra Groppo, comunque insomma. Comunque poca differenza di anni, sì. E devo dire che il suo racconto era veramente delizioso, mi pare che si trovasse però il suo altro sì. Affrontava una malattia, sì, sì. Una malattia che insomma il tema con cui... Delia ci ha raccontato una serie di cose. Sì, però nel mio racconto non c'è. No, nel racconto della Pagliarini. Sì, certo. Sì, sì. Infatti anch'io quello l'ho apprezzato molto e l'ho trovato molto gradevole. Se posso dire una cosa, visto che tanto stiamo parlando dei racconti, io li ho trovati tutti molto carini, ma ne ho trovato uno veramente delizioso e quando l'ho letto ho pensato, questo, a mio giudizio, è il racconto più bello di tutta l'antologia, perché metteva insieme molte cose, ma soprattutto tirava fuori anche un'ironia graffiante che mi corrisponde moltissimo, ed è di un'autrice che si chiama Rita Gatto. Sì, che non è potuta venire perché non si sente bene. Non sta tanto bene, ha detto, però comunque ci sono delle ambasciatrici che in qualche modo le potranno dire. Quello che succede. Sì, sì. Però è vero, è uno dei racconti più... È un racconto bellissimo, che si chiama Tempus Fugit Anormale, se non sbaglio, perdonate il mio latino, ma l'ho detto io. Però non l'hai detto tu, quindi devo dire che quando l'ho letto ho pensato, Gesù, avrei tanto voluto essere in quel posto, in quel momento, per vedere questa cosa. L'autrice non è qui. Chissà da cosa ha avuto questa idea, chissà. Purtroppo sai che le autrici alcune non ci siamo mai conosciute. Lo so. Io per esempio non conosco oltre a Rita Gatto neanche Daniela Tazzioli. E abbiamo un rapporto virtuale. È un racconto fantastico, veramente, bellissimo. Sì. Ci sono altre cose, se no procederemo, e si può sempre dire dopo, però ci piacerebbe, proprio Delia l'ha tirato fuori, ci piacerebbe, noi abbiamo scelto tre poesie, non volendo leggere pezzi, brani dei racconti, perché i racconti sono brevi, leggere un brano era un po' più complicato e poi la scelta ci veniva difficile. Invece anche noi abbiamo apprezzato moltissimo le poesie all'interno di questa antologia, e perché... La poesia apre un altro mondo e un altro modo di rappresentare questo particolare mondo che si sono prese in carico le nostre 14 autrici di fare. E quindi, se non vi dispiace, Cilla, sì? Voleva dire qualcosa. Non ho capito? Lei voleva dire qualcosa, ha alzato la mano. Sì, scusami, no, non ti avevo visto. Assolutamente, non volevo interrompere. Vai. No, mi chiedevo, prima di dire che ovviamente raggiungendo una certa età poi si ha l'idea che nulla cambi, e mi sono invece chiesta se in realtà cambia l'idea che si ha del tempo, dell'amore, dello stare insieme, soprattutto il rapporto che si ha con il tempo. Se è qualcosa per cui, non so, si vive la giornata scaldendola in un modo diverso rispetto a quando si è un po' più duro. È una domanda. Stai chiedendo da più anziana? Sì. Perché mi viene una certa. Non lo so. Non ho fatto tanto. No, allora nulla cambia fino a un certo punto. Nulla cambia rispetto a un certo modo di sentirsi dentro. E io potrei dire quella parte spontanea in fondo, no, di noi, a meno che poi uno non soffra di cali dell'umore, però è come se, cioè, l'idea è che ti cambia il corpo, no? Magari ti guardi allo specchio e dici, però no, 10 anni fa queste rughe non ce le avevo. Però ancora ci sono una serie di cose che io farei oggi esattamente come prima, e mi entusiasmano esattamente come prima. Poi ci sono tante altre cose che cambiano, sì, se questo è il senso, a me moltissimo il senso del tempo, sì, moltissimo il senso del tempo. Cioè, se prima c'era l'illusione di avere il tempo, adesso il tempo è l'oggi, non esagero. Poi c'è il domani, forse. E quindi sì, nonché poi se ci sono delle tappe della vita che sono state particolarmente trasformative, è chiaro che quelle tappe segnano un prima e un dopo. Cioè io per esempio sempre non mi riconosco più in situazioni che ho vissuto anche 10 anni fa, perché questi 10 anni sono stati molto trasformativi. Per mia volontà anche, cioè nel senso che ho deciso proprio di iniziare un percorso di grande trasformazione, non sapendo dove arrivassi ovviamente, però quindi sì, come no, tante cose. Su alcune però a volte mi succede questo, proprio che mi guardo allo specchio e dico sì, la mia faccia non è qua, anche se poi io non, ci sono persone che cambiano moltissimo. Io così, dico la mia faccia non è quella di 15 anni fa, assolutamente diversa, il tono, la luce, le rughe, no? E però certe volte mi sorprendo e dico, oh, guarda, però per come io mi sento oggi e per quello che voglio fare e per come voglio vivere la mia giornata, è come se non fosse cambiato niente. Certo, magari mi fa male un piede, oppure no? Era questa, diciamo così, la metafora, no? Di un corpo che presenta un po' i suoi problemi, perché di corpo siamo fatti, e alcune, non tutte, alcune dimensioni che però invece restano come quasi senza tempo. In un certo senso anche il titolo del racconto, quando io ho messo il tempo di giocare, è stato come un voler contattare anche questa dimensione, che è una dimensione un po' sospesa. Questo comunque, scusa, ma dipende anche molto dalla soggettività. Io ho avuto la fortuna di non avere mai uno sguardo al fisico, cioè nel senso che non mi sono mai... addirittura io arrivavo a non sapere se una donna era alta, bassa, una persona era alta, grassa, bassa, magra, perché non lo vedevo proprio il fisico, ho sempre visto soltanto la personalità. Sono stata strutturata così perché non lo so, insomma, la diretta è questa. Io oggi sinceramente non, sicuramente gli altri che mi vedono vedranno che ho più rughe di 10 anni fa, io non è un dato che osservo. E per dire, a proposito di cambiamenti, io 20 anni fa dovevo per forza portare gli occhiali, perché ero mio, pessimatica, eccetera. Adesso con l'età mi hanno fatto la cataratta e guardo completamente senza occhiali e guido solo con gli occhiali per sicurezza, ma posso guidare completamente senza occhiali. Quindi è estremamente soggettivo il modo in cui ti vedi, il modo in cui ti guardi, il modo in cui è soggettivo. Probabilmente sarò anche un'eccezione, non voglio dire di no, ma cioè, io conosco Lucilla da una trentina d'anni, non ci vediamo quasi mai quando capito qui, ma non mi capiterebbe mai di dire quanto sei cambiata o come sei cambiata, perché quello che mi diciamo che ricordo con lei è il suo impegno, diciamo così, all'interno della dimensione del gesto. Non so, sei sempre uguale per me. Grazie. Non riesco proprio a vedere. E quanto rispetto al progetto, all'oggi qui, temo di essere un po' fuori di testa, perché io invece ho progetti a lunghissima distanza, cioè ho progetti di comprarmi casa, di andare in Spagna a vivere fra una decina d'anni, poi magari non ci sarò, non lo so, ma non me ne frega niente, cioè la mia dimensione è tutta in proiezione, oggi qui è quello che c'è, cioè i miei nipoti, la mia vita, le cose che mi interessano, eccetera, eccetera, però non è legata al... Cioè è sempre stato oggi ci sono, domani non lo so, insomma, non è adesso, è sempre stato così. Sarà per la mia esperienza di vita, cioè a me sono morti due figli a 32 e 54 giorni, quindi per me la morte non è una cosa che viene, o la fine vita non è una cosa che è quando sei vecchia, è una cosa che viene in qualsiasi momento della vita. Tra l'altro ho avuto la fortuna di vivere con donne lesbiche anzianissime, cominciata mia madre, sempre con mia zia, e per finire con la mattina di mio fratello che è morta l'anno scorso a 93 anni, e quindi donne completamente attive, presenti, non posso dire, cioè non sinceramente credo che molto molto riguardi la storia soggettiva, cioè la personalità, la propria vita, il proprio contesto. Io ho girato tutta l'Italia, ho vissuto un po' quasi tutta l'Italia, quindi per esempio non ho l'idea del mio luogo, della mia casa, dei miei ricordi, del mio passato, cioè tutto questo è solo io, quindi è così, non lo so, certo. Margherita, vuoi dire qualcosa? Che dire, penso che sia forse diverso per ciascuno di noi. Mi viene in mente quello che mi diceva mia madre, me lo diceva spesso, diceva quando vado in giro con voi ragazze, anni fa diceva questo, mi sento una di voi, poi passiamo magari davanti a una vetrina, mi guardo e dico chi è quella vecchia? quindi, come dire... È vero che si crea questo squilibrio tra l'immagine esterna e quella percepita internamente, però forse possiamo reggerlo. Le nostre care amiche, non sono presenti questa sera, Monica e Rossella, si trovavano a Torino insieme al Lorzanetto. Dicevo, le nostre care amiche, Giovanni Olivieri! No. Monica e Rossella si trovavano a Torino per un convegno di Monica, mi sembra, e si sono portate dietro il loro canetto Zaki, che era un bassottino delizioso, sotto Torinoena, e camminando nel freddo delle strade torinesi si fermano davanti ad una vetrina e si specchiano, e una fa l'altra, Rossella fa l'altra, ciao Monica, sembriamo due vecchie lesbiche col bassotto, e l'altra, la Rossella, noi siamo due vecchie lesbiche col bassotto, quindi questo per dire la percezione che abbiamo. Sì, non lo so, non so che dire rispetto al tempo, nel senso che... Ah, per dire una cosa, se qui alzassero la mano tutte quelle che erano nel clima l'85-86, la metà, alzate la mano, passate dal clima, guardate quanto siamo, quindi non ci conosciamo tutte da 30 passare, poi dopo sono quelle che sono un po' dopo. Questo potrebbe essere un bellissimo, anche la Vaccarella è stata la mano. E certo, no, la Vaccarella si intende. interrogava sull'85-86, perché io penso che io sono arrivata molto prima. Sì, no, io dicevo da quando siamo arrivati. Io sono arrivata all'83. Allora, infatti, Baccarelli è una cofondatrice. Che mi creava qualche problema. Infatti, tu lo devi dire che sei una cofondatrice. Nell'85 lei ha. Noi siamo passati dal governo vecchio a quella struttura che c'era vicino a Viale Trastevere e poi siamo venute qua. Quindi questa cosa sul fatto che intendiamo insieme, ci vediamo sempre come pietre con pasture, non so se può suggerire qualche spunto. Potrebbe. Allora, dicevo, rispetto al tempo non so cosa dire, nel senso che lo vivo nella quotidianità, non so se aderire al suo pensiero, al suo pensiero, al suo pensiero, nel senso che è un po' tutto insieme. E ecco, semmai c'è se devo parlare di una piccola differenza è che prima facevo tutto molto in fretta e adesso invece mi viene più voglia di avere tempo. Nel senso che ricorre nel mio linguaggio questa cosa, cioè voglio tempo per me, ecco, quindi e mi sono scoperta perché ce la fai, perché ce la faccio e mi sono scoperta a dire questa cosa, questo proprio in relazione al tempo, in relazione all'amore non lo so perché sono single da troppo tempo e quindi in questo momento non ti so di niente, dovrei testare la cosa e non so che dire. Esatto. Non dipende secondo voi anche dal lavoro, cioè io penso che chi lavora ha una dimensione, cioè stai appresso al lavoro, corri dalla mattina alla sera, cioè io sono attentissima invece allo specchio esteriore perché sto attenta e quando mi guardo allo specchio a volte mi darebbe capocciate perché mi sembra di cascare tutta, no? Esagerando un po' come l'attenzione. Però per esempio io vado in motorino ed è il mio unico mezzo di... e ogni tanto certo sono mai completamente matta, nel senso che ho anche un casco con la pinacola, quindi c'è uno sfasamento sicuramente, però evidentemente ogni tanto ci rifletti e dico beh, sembro squinternata, ma invece ho un mio equilibrio, una mia saggezza, sono acida, tutto quello che si vuole, però ho una mia compattezza, diciamo così, sicuramente è dovuta all'età. Ci si vede magari e ci si pensa, non hai l'abitudine di dire, anche io Lucilla la conosco da una vita, appunto, dai tempi, mi verrebbe da dire, ma Lucilla è uguale. Anche a me mi viene da dire la stessa cosa di te, Susanna. Perché non guardiamo mai le fotografie, andiamo avanti, però non è così. Il problema è il fatto che forse per sopravvivere, perché sennò veramente non reggeresti all'invecchiamento, al fatto che pensi che c'hai sempre meno anni davanti e ce n'hai sempre più dietro e che magari poi ti capita a 70 anni di memoria e tutto quello che ti frega, perché ti sembra di far così sfumare le malinconie, no? Certo. Però anche l'equilibrio che abbiamo acquisito, il fatto di dire sono single e sto benissimo, cioè non ho più bisogno, se mi innamoro sono contenta, non voglio che non ci sputo sopra, però certo. Tutto sommato, ma vogliamo tornare ai patemi d'animo, ma se sto tanto bene così perché no? Cioè ci sono tante cose che però sono tanto soggettive, certo, tanto, certo, no? Naturalmente. Tasso di acidità è sano, capito? Sì. Tutte le mattine il bicarbonato. Ma ci sono tante varianti, non so se credo che proprio sia una cosa che ognuno ha la sua, certo, sì, per la sua vita, sì, come diceva lei, soprattutto il lavoro, dipende uno anche il lavoro fa, come se è scandito ancora la nostra età dal lavoro che fai, dal viaggio che devi fare per andare a venire, tutte le cose che succedono. Il problema delle pensioni ci poi non ne va parecchio, dobbiamo lavorare fino a morire di stanza. Ci aiuta anche il penso. Questo è un altro vantaggio. Ci mantiene giovani. Questo è un altro vantaggio dell'essere vecchi, è che noi la pensione abbiamo chiesto. Riapre che daremo un pochino con la pensione. Dirlo. Sì, allora guarda, soltanto. Allora. Due cose vorremmo dire. Prima, domani c'è la presentazione dell'altro libro, scusate, dell'altro libro che è il libro di Margherita, e che già l'abbiamo messo là in, chi lo vuole, insomma, e quindi saremo, cioè, avremo un nuovo appuntamento domani qua alle 6. Poi c'è Delia che vorrebbe dire una cosa, però io, siccome ho parlato di poesie, perdonatemi, perdonate anche il modo come la leggo, però una di quelle che avevamo pensato, una la voglio leggere, ed è di Marisa Corello, ed è, si intitola È una pena. È una pena diventare vecchie, non sentire più la fame, svegliarsi ogni tanto quando piove. Mi sono innamorata di nuovo. Questa è la vecchiaia, quella che piace a me, questo modo ironico, eccetera. Quindi, al di là di leggerne delle altre, non importa, però c'è questa sezione delle poesie che è, per quello che mi riguarda, molto gustosa e penso che le potrete apprezzare, va bene? Un po' alla cavallo, per capirci, no? Esatto, ed è per quello che mi è piaciuta molto, insomma. Vai Delia. Allora, come voi avete sentito, forse il mio giornale è in una situazione molto difficile. Cambiamenti, rischio di chiusura, rischio di una deportazione fortissima dei posti di lavoro, non siamo molti, siamo 36. Però in questa situazione, e con il direttore che è Staino, che immagino che voi conoscete, certo. È una situazione di sospensione e abbiamo deciso ieri di riaprire la mia rubrica. Prima che chiudano il giornale? Sì, magari con il desiderio che questo possa aiutare, certo. Perché il giornale sta un po' anche cambiando volto. Cioè il desiderio è di farne di più un ponte con la società civile e la mia rubrica sostanzialmente è stata una delle migliori esperienze in questo senso, cioè con una mano tesa tra un giornale e la società civile. Quindi martedì prossimo riprendiamo con il racconto di storie e questa volta diciamo non sarà soltanto confinato a perché ce n'era forte bisogno a lesbiche, gay, bisessuali e transessuali, ma a ogni diversità, quindi anche, ma non solo. Non posso che chiedervi di leggere martedì, di andare in edicola e comprarlo. Per me l'unità significa moltissimo, il giornale in cui ho cominciato a scrivere da piccolina, cioè nell'89, e invece Liberi Tutti ha visto la luce nel 2000, quando la prima volta siamo andati in cassa integrazione, il giornale ha chiuso, l'ha riaperto Colombo, c'era stato il Gay Pride nel 2000 e lui mi disse: ma qual è l'articolo a cui tu sei più affezionata? E io gli dissi: beh, quello che nel 96 scrissi invitando e i miei colleghi a venire a casa nostra, e iniziai una battaglia per la Casagit, per il riconoscimento delle coppie omosessuali dentro la Casagit. Quella io mi ricordo, poi insomma venni a, quando feci il coming out sul giornale nel 96, poi venni al CLI, di cui sono cofondatrice, per venirne appunto a parlare, e per me quella era stata una grandissima emozione, perché c'era una saldatura tra la mia attività politica nel movimento lesbo-femminista e la mia professione di giornalista. E quando poi ho proposto la pagina Liberi Tutti, questa saldatura è stata più che conclamata. Tra l'altro quella pagina, forse poi non tutti sanno, ma io sono stata cercata dalle case editrici, cioè la Mondadori mi ha cercato per fare Le Principesse Azzurre, perché era effettivamente una cosa che funzionava. Principesse Azzurre era il titolo di una delle pagine Liberi Tutti, che si intitolava La mia vita con la Principessa Azzurra, ed è stato poi, credo che tutte voi avete riscontro, un modo poi anche per dire lesbica, no? Cioè La mia Principessa Azzurra è diventato anche. Quindi Liberi Tutti rinasce con mia grande emozione, spero che duri, martedì, come io sono solita fare, io darò al giornale, tra virgolette, le mie viscere, cioè io racconterò la mia storia col cancro. Quindi buon incontro martedì e spero anche negli altri, gli altri martedì. Ci sarà una mail dove potete scrivere e se volete anche ovviamente suggerire argomenti, oppure se vi sembra di poterci rientrare anche il racconto della vostra storia. Io credo che in questo momento la politica abbia bisogno di questa parola abbia bisogno di essere riempita di altri contenuti, non quelli ai quali assistiamo, e raccontare una storia è fare politica anche. Quindi vi ringrazio tra l'altro di avermi dato questa possibilità di cominciare a dire che dai tutti nasce, e speriamo che continui. Grazie. Grazie. Guarda Laura, che non devi avere più paura, cosa provi per la tua migliore amica, quel tuo avere in gran segreto un'altra vita. Guarda Laura, che tua mamma non l'ha ancora capito, e chi c'è chiusa dentro di te, chi è l'altra parte di te che se ne sbatte del giudizio di tutta questa gente che ti dice prepotente. Tu sei diversa, tu sei diversa, tu sei diversa, tu. E invece resta come sei e la tua vita non perdere chi pensa che ci sia una cura, non ci credere a chi è vittima della sua cultura. Guarda Laura, non puoi fingere tutta la vita, e chi c'è chiusa in quella stanza sei te, che ne hai abbastanza del giudizio della gente che non sa niente, che ti dice prepotente. Tu sei diversa, tu sei diversa, tu sei diversa, tu. E allora resta come sei e la tua vita non cambiare mai, e la tua sfida resta come sei, tu sei. Fragile quanto vuoi, non fingere di essere quella che non sei. Ti prego non fermare la tua gioia di vivere e d'amare, quell'istinto naturale. Non sei diversa, non sei diversa, non sei diversa, no. Non farti male.